Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay. Buona parte della leggenda che ruota attorno al calcio in qualche modo va ascritta alla Coppa del Mondo di calcio, una storia lunghissima che vi abbiamo già raccontato nella scorsa stagione, dal 1930 ai giorni nostri. Tutto partì, diciamo, dalla voglia di codificare determinate partite, dalla voglia di Jules Rimet, il primo presidente della FIFA, che voleva in qualche modo dare ancora più senso alle partite di calcio. C'erano già i campionati nazionali europei, ma le nazionali si dovevano in qualche modo incontrare da qualche parte. Ecco, Jules Rimet, grazie a lui ancora oggi milioni di appassionati aspettano che ogni 4 anni vada in scena lo spettacolo dei mondiali di calcio, anche quando non c'è la tua nazione, cosa che purtroppo è successa all'Italia nel mondiale 2018. Insomma, il cardine del calcio per certi versi è proprio la Coppa Rimet, oggi Coppa del Mondo. Ma noi oggi non vogliamo raccontarvi la storia di lui, di Rimet, ma proprio la storia dell'oggetto, di quella coppa da lui ideata per i vincitori dei mondiali, la Coppa Rimet. Allo sport, Rimet si era accostato alla fine dell'Ottocento, fondando la polisportiva Red Star. Poi, nel 1910, aveva virato sul calcio, costituendo la Ligue de Football. E alla fine della Prima Guerra Mondiale, combattuta da capitano di cavalleria, era stato nominato presidente della Federazione Francese. 3 anni più tardi, nel marzo del 1921, l'elezione a presidente della FIFA, grazie alla dura opposizione dell'Inghilterra che pretendeva l'esclusione dei paesi sconfitti. Dopo averlo coltivato a lungo, al congresso di Amsterdam del 28 lanciò il progetto di una Coppa del Mondo. Così racconta Gigi Garanzini nel libro Il Minuto di Silenzio. A più di 20 anni dalla sua nascita, sotto la guida di Rimet, la FIFA, la Federazione Mondiale, riesce in questa missione a organizzare il primo torneo di calcio internazionale della storia. Rimet è la mente di tutto, lui non si limita a dare l'idea a questa competizione, ma si mette in gioco in prima persona, fa confezionare questo trofeo che verrà consegnato alla squadra vincitrice. Si affida a Bella Fleur, che è un orafo di Parigi, che ha studiato alla scuola di Cartier, gli commissiona questa coppa ed esce questa Nike vittoria, la vittoria alata. È una coppa decagonale, pesa 1,8 kg d'oro a 18 carati. Il fatto che valga così tanto quest'oro, insomma, poi in qualche modo piloterà e guiderà la storia che sto per raccontarvi. È una vera e propria opera d'arte e la Coppa Rimet è destinata a vivere una storia misteriosa, piena di colpi di scena. Da Parigi la Coppa Rimet parte per il suo primo viaggio, perché viene imbarcata nell'estate del 1930 in questa strana nave, oggi sarebbe impensabile, è una nave con le squadre europee che stanno andando in Sud America per giocare la Coppa a Montevideo, la direzione quella, Uruguay. Quindi ci sono su questa nave i dirigenti, le squadre, addirittura anche gli arbitri, cosa insomma strana e un po' particolare. La nave si chiama il Conte Verde e questo transatlantico porta tutto il circo del calcio europeo verso Montevideo, e qui lei, la Coppa, fa il debutto. E la Fleur ha fatto questa scultura elegante dallo stile Liberty, che sembra ancora più piccola quando finirà nelle mani da marmista, nelle grosse mani del capitano uruguagio Nasazzi, che la alza al cielo per la prima volta al termine della finale, vinta 4-2 contro l'Argentina. La Coppa Rime però è destinata a una vita nomade, perché il regolamento stabilisce che la Coppa passerà di mano in mano, cioè ogni volta chi vince la Coppa se la porta a casa. Però quando un paese arriverà a vincerla tre volte, sembra l'inizio di una fiaba, quando un paese la vincerà tre volte se la potrà tenere definitivamente. Insomma, l'Uruguay vince la prima edizione, quindi la Coppa rimane in Uruguay, ci rimane fino al 34, quando fa il percorso inverso e viene imbarcata e torna in Europa, torna e arriva in Italia, perché in Italia si gioca il mondiale del 34 e è lì la Coppa. In Italia ci rimarrà per molto tempo, perché l'Italia vince il 34 e poi vince anche nel 1938 e poi arriva la guerra mondiale. Insomma, la Coppa Rimé sta per vivere la sua prima avventura turbolenta. Con questa guerra europea calcio si giocava ancora in Europa, ma la dirigenza era sparita. Rimé aveva dovuto lasciare Parigi per andare con sua figlia e sua moglie in una casetta nel sud della Francia. Il segretario generale stava bloccato praticamente nella sua casa di Zurigo. L'attività internazionale era a letargo. E nei paesi nei quali il calcio era diventato così popolare si continua a giocare, si prova a giocare, insomma, nei limiti del possibile, anche durante la guerra. Poi arrivano i bombardamenti, la guerra si inasprisce, l'attività agonistica viene resa impossibile, la dirigenza della FIFA rimane bloccata, vengono sospesi i campionati e poi anche i tornei internazionali. Insomma, il viaggio della Coppa Rimé si ferma, è a Roma e lì alloggia dal 34 dall'ingegner Ottorino Barassi. Barassi è presidente della FIGC, uomo di fiducia di Mussolini, e lui si porta la Rimé a casa in Piazza Adriana a Roma. Un giorno del 1941 arrivano le SS alla sua porta, vogliono la Coppa Rimé, Hitler la sta cercando. Quindi c'è questa scena surreale, le SS che bussano a casa di Ottorino Barassi, presidente della FIGC, e gli chiedono dove ha messo la Rimé. Eh sì, perché in quegli anni 1,8 kg d'oro possono tornare molto utili. La missione però non va a buon fine. Insomma, la furbizia di Barassi fa sì che per un pelo la Rimé, l'oro della Rimé, non finisca, diciamo, dato alla patria e rimanga a casa sua e non nelle mani dei tedeschi. C'è un mezzo mistero su come sia stata salvata quella volta la Coppa. C'è una versione affascinante di una delle ipotesi pubblicata nel libro Il generale Vaccaro di Mario Pennacchia. Vaccaro era un dirigente sportivo, abitava nell'appartamento accanto a quello di Barassi. All'arrivo dei tedeschi, Barassi manda la moglie a aprire la porta e nel frattempo lui passa dal balcone comunicante la Coppa Rimé a Vaccaro e lui la ripone in una scatola da scarpe sotto il letto del figlio. I tedeschi mettono a suo quadro l'appartamento di Barassi ma non trovano quello che cercavano. Si spostano poi da Vaccaro, che in casa custodiva molti trofei, e i tedeschi cercano l'oro, la cercano la Coppa Rimé, non la vedono da nessuna parte. Poi si soffermano su una pergamena dedicata a Vaccaro e la pergamena è firmata Hermann Göring, il vice del Führer, e a quel punto i tedeschi si fermano, salutano Vaccaro con riverenza e tolgono il disturbo. Insomma, la Coppa è salva, rimane a Barassi fino alla fine della guerra. Nel 1946 viene portata in Lussemburgo. Da quel momento la Rimé ricomincia il suo lungo viaggio. E intanto bisogna andare di nuovo dall'altra parte dell'oceano, perché il primo mondiale del dopoguerra si gioca in Brasile. Tutti pensano che lo vincerà il Brasile, cioè abbiamo dedicato puntate, fiumi di parole, come direbbero i Jalis, alla storia di quel mondiale terribile del 50, nel quale gli uruguaiani vincono, sottraggono la coppa ai brasiliani e se la riportano a casa. Nel 54 si torna in Svizzera, perché è lì che si fanno i mondiali, e lì finalmente, se così si può dire, i tedeschi riescono a toccarla, la vincono sul campo. Naturalmente i tempi sono cambiati, non la fondono, si limitano a custodirla fino al 58, e qui c'è un altro finalmente da dire, sempre prodomo loro, perché nel 58 i brasiliani riescono finalmente a aggiudicarsi questo trofeo. Il Deraldo Bellini, il capitano, la solleva al cielo di Svezia. Il mondiale del 58 è molto importante, non solo per la vittoria del Brasile, ma anche perché in qualche modo nasce un nuovo tipo di calcio, quel calcio danzato, spettacolare, la ginga lo chiamano, è una via di mezzo tra la danza e il gioco del calcio, nasce nelle favelas e viene poi portata nei grandi stadi appunto dalla nazionale brasiliana, anche perché all'interno di quella nazionale c'era un certo Edson Arantes do Nascimento. Pelé allora era ancora minorenne, ma già stupisce tutti, segna in ogni modo e in qualche modo trascina il Brasile alla vittoria della Coppa Rimé, che rimarrà 8 anni, perché il Brasile il mondiale lo vincerà anche 4 anni dopo in Cile, e quindi cominciano a essere 3 le squadre che hanno vinto 2 volte la Coppa Rimé: l'Italia, l'Uruguay e il Brasile, cioè le 3 squadre che sono a un passo dal portarsela definitivamente a casa. Arrivano a questo punto i mondiali in Inghilterra. La Coppa potrebbe trovare un padrone, è vero, però ci sono altre squadre che la vogliono vincere. Insomma, nella primavera del 66 la Coppa Rimé si rimette in viaggio. La destinazione è Westminster Hall di Londra. Lì verrà esposta al pubblico per qualche mese prima dell'inizio dei mondiali. E qui è da dove l'hanno presa. Il trofeo si trovava a circa 30 centimetri di altezza. C'era solo un piedistallo proprio qui al centro della vetrina. I ladri sono entrati senza forzare un'apertura sul davanti, il vetro è ancora intatto. Uno dei ladri sembrava avesse i capelli neri, labbra sottili e non sembrava troppo alto. Quando la coppa è arrivata qui ci è stato detto che sarebbero state prese le più severe misure di sicurezza per proteggerla. Oggi, in qualche modo, hanno fallito. Altro colpo di scena: a meno di 3 mesi dall'inizio delle partite dei mondiali del 66, la Coppa Rimé è svanita nel nulla. Un furto che mette in grave difficoltà gli organizzatori, proprio gli inglesi, che quando si parla di calcio si sentono sempre un passo più avanti rispetto a tutti gli altri. Proprio gli inglesi, che per anni non c'erano neanche andati ai mondiali perché ritenevano fossero riduttivi, diciamo, per la loro bravura e la loro storia, e si limitavano quando avevano voglia a sfidare la nazionale che i mondiali li aveva vinti. Insomma, gli inglesi, quelli che dicono nebbia sulla manica, l'Europa rimane isolata, ecco, quegli inglesi lì, e in questo momento quegli inglesi che in qualche modo sono inventori del calcio si trovano a dover annunciare al mondo che si sono fatti rubare la coppa. Neanche Hitler era riuscito in questo intento. Adesso mancano una manciata di settimane alla prima partita del mondiale e la Coppa Rimé non c'è più. Nella primavera del 66 Scotland Yard manda a setacciare ogni centimetro quadrato del suolo inglese alla ricerca della Coppa Rimé, e sui giornali, in televisione c'è, viene diffuso l'identikit dell'oggetto, come fosse un ricercato in carne e ossa: altezza 30 centimetri, peso 3,8 kg, di cui 1,8 kg di oro 18 carati, valore di mercato 50.000 franchi. E nel frattempo la federazione inglese corre ai ripari, fa confezionare un'altra Coppa Rimé, una copia, è giusto per essere sicura di arrivare al mondiale in qualche modo con una coppa da esibire e da consegnare alla squadra vincitrice. Insomma, certo non è la stessa cosa, ma qualcosa bisogna fare. Però nessuno vuole credere a questa terribile possibilità. Nel frattempo, dopo la sparizione del trofeo, che ormai è diventato il sacro graal del calcio, e ci sono centinaia di londinesi, è una psicosi che succede sempre in questi casi, ci sono centinaia di londinesi che giurano di aver visto la coppa in ogni angolo della città. Nessuna delle segnalazioni poi si rivelerà fondata, la polizia brancola nel buio, non si sa come fare, è frastornata dalle continue lettere, telefonate, mitomani che chiamano. Però oltre a queste arrivano anche lettere con delle richieste di riscatto. Una di queste è indirizzata a Joe Mears, il presidente della Football Association inglese, e questa lettera sembra piuttosto credibile. Se vuoi ancora vedere la coppa, ti suggerisco di fare quello che ti dico e di seguire le mie istruzioni. Se pagherai 15.000 sterline in pezzi da 5 e una sterlina, riavrai la coppa e sarai soddisfatto insieme al resto del mondo. Nella busta troverai un pezzo della coppa per dimostrare che sto dicendo la verità. Se accetti, metti un annuncio economico venerdì, altrimenti la coppa sarà distrutta. E quando il presidente John Mears riceve la lettera, comincia a sudare freddo e c'è la testa nella busta, quindi è evidente che i sequestratori hanno in mano il trofeo originale, quello realizzato da Lefleur, commissionato da Jules Rimet. Nel frattempo, peraltro, Rimet non vedrà tutto questo giallo perché è venuto a mancare da quasi 10 anni. E insomma, l'associazione del football decide di accettare la proposta dei ladri, prepara 15.000 sterline in banconote di piccolo taglio necessarie al riscatto, organizza un incontro, non si presenta nessuno. Nel frattempo, però, le indagini portano all'arresto di un portuale disoccupato, si chiama Edward Batchley. Viene ritenuto responsabile del furto. Eh sì, però della coppa non c'è nessuna traccia. Sono giorni frenetici per la polizia e i mondiali si stanno avvicinando. Siamo già a marzo. La mattina del 27 marzo si presenta alla stazione di Londra un uomo che era a passeggio col suo cane. Il nome dell'uomo è David Corbett, ha 26 anni, lavora come impiegato in un'agenzia di viaggi e in mano tiene della carta di giornale. Dentro a questa carta c'è un oggetto dorato di circa 30 centimetri, molto pesante, 3,8 kg, ed è proprio lui, questo oggetto, o lei se preferite. Insomma, lì dentro c'è la vittoria alata. Il poliziotto di turno non può credere ai suoi occhi. Sulla sua scrivania c'è la Coupe Rémy. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una storia molto avventurosa, ma non la storia di una persona, la storia di un oggetto d'oro, una vittoria alata, che è la Coppa Rimella, coppa che veniva consegnata ogni 4 anni al vincitore, appunto, del mondiale di calcio, una coppa che sarebbe rimasta in via definitiva alla squadra capace di vincere per 3 edizioni il mondiale di calcio. La vittoria alata, 800 grammi d'oro, 18 carati. Bene, a questo punto della nostra storia la coppa è sul tavolo di un poliziotto di Scotland Yard, perché era stata rubata alla vigilia dei mondiali inglesi. E dopodiché un giovanotto di 26 anni che sta andando in giro col suo cane trova, veramente è il cane che la trova, ritrova la coppa dopo indagini nelle quali Scotland Yard aveva battuto a tappeto tutta la città di Londra. La coppa fu ritrovata all'improvviso, non dalla polizia. Molti erano coinvolti nella sua ricerca, ma da Pickles. Insomma, una storia strana questa. La nostra protagonista, che è una coppa, un oggetto d'oro, è uno degli eroi di questa storia, che è un cagnolino, un meticcio sveglio, iperattivo, si chiama Pickles. Una mattina lui è a passeggio col padrone David Corbett in un parco di Londra, si allontana, non risponde più al richiamo del padrone, che è costretto a andarlo a riprendere. Raggiunge l'animale e vede Pickles che sta scavando nella terra e trova qualcosa avvolto in una carta di giornale. Il padrone tira fuori dalla terra l'oggetto, lo scarta e vede la Coppa Rémy d'oro, senza testa, ma sempre la Coppa Rémy senza testa, che era finita da Joe Mears, il presidente dell'associazione del football in quel momento. Però di fatto è la Coppa Rémy. Corbett, il ragazzo, la porta al primo comando di polizia e insomma c'è un poliziotto che in qualche modo si trova la Coppa Rémy sulla scrivania. Insomma, è un sospiro di sollievo per la FIFA, per la federazione inglese. Gli inglesi difficilmente sarebbero sopravvissuti a uno smacco simile avvenuto lì, proprio dove tutto è partito, dove il calcio è nato. Dopo il ritrovamento, il cagnolino Pickles viene premiato come eroe nazionale, diventa il simbolo di quel mondiale, il simbolo del mondiale del 66, e la Coppa Rémy è tornata, la testa sarà riattaccata e poi verrà consegnata nelle mani del capitano della squadra, che sarà campione del mondo. Eh sì, questa volta gli inglesi, gli inventori del calcio, anche se in maniera insomma un po' rocambolesca, riescono a vincere il mondiale organizzato in casa loro. È la prima e per ora l'unica volta, e quindi la coppa rimane in Inghilterra almeno fino al mondiale successivo, quello di Messico 70. Rimane un dubbio, chissà se il trofeo che Bobby Charlton ha mostrato a tutto lo stadio di Wembley era l'originale, o forse la replica, quella realizzata, diciamo il piano B, realizzata dopo il furto da un orafo londinese, George Bird. Probabilmente sarebbe anche un accorgimento comprensibile, si voleva proteggere il trofeo da un altro furto, chi lo sa. Quando gli inglesi rubarono, si fa per dire, la coppa alla Germania a Wembley 4-2, corsero per il campo con quella vera, ma la sera ai tifosi fecero vedere quella finta, avendo la polizia rimesso al sicuro l'originale d'oro. La copia tornò, si dice, a Mr. Bird, che la buttò sotto il suo letto. 4 anni dopo gli inglesi furono costretti a rendere la coppa alla FIFA, ma pare che invece di dargli la vera, gli diedero la falsa. O forse avevano sempre avuto la falsa senza saperlo. E come racconta Francesco Bonami sulla Gazzetta dello Sport, il mistero rimane, anzi si fa più fitto, perché chissà se nel 1970 ai mondiali in Messico andò la coppa originale d'oro o quella realizzata dall'orafo inglese in bronzo dorato. E sarebbe importante saperlo, anche perché in quell'edizione del 70 arrivano alla finale 2 nazionali che l'hanno conquistata entrambe per 2 volte, sono l'Italia e il Brasile. Insomma, quella domenica del 1970 si sa che la coppa deve andare da una parte o dall'altra. La coppa sta per andare in pensione. Nel frattempo prosegue la maledizione della Coppa Rimé. Il cane, vi ricordate il cane Roy Pickles, muore qualche tempo dopo la finale in maniera tragica, impiccato a un albero, si è strozzato col suo stesso guinzaglio mentre rincorreva un gatto. E poi muore anche Edward Beckley, l'uomo che era stato accusato del furto, che era stato incarcerato e poi liberato su cauzione, e ancora oggi non si sa chi ha pagato per la sua libertà i soldi della cauzione. Edward muore prima ancora della finale di Wembley per un malore, e sulle pagine dei giornali si comincia a parlare di questa maledizione della Rimé. È come se il furto avesse svegliato, diciamo, spiriti assetati di vendetta, gli dèi del calcio. Piccolo e Beckley, insomma, sono le prime vittime sacrificali di una lunga serie. Per noi italiani il mondiale del 1970 è quello della mitica partita Italia-Germania 4-3, è il mondiale della staffetta Mazzola-Rivera, è il mondiale di Lodetti mandato a casa prima di iniziare il torneo. Insomma, ne abbiamo parlato tante volte, sono successe veramente tante cose in quel mondiale, e ci si dimentica forse che alla fine comunque l'Italia è arrivata in finale, e in finale però c'era il Brasile di Pelé, c'era un'Italia stanca per la mitica partita giocata 3 giorni prima con la Germania, ma soprattutto c'era forse il Brasile più forte di tutti i tempi. 4-1 per i verde oro fu il verdetto, insomma la coppa va in Brasile e viene alzata per l'ultima volta nel cielo, questa volta nel cielo di Città del Messico, da Carlos Alberto, capitano di quel fantastico Brasile. La prima cosa che mi venne spontanea fu darle un bacio, perché non avevo mai visto la coppa da vicino, e quando la guardai bene era molto carina. Mi venne naturale baciarla e sollevarla per i fotografi, per tutti, perché tutti la vedessero, soprattutto qui in Brasile. Era nostra, e quando la sollevai dissi: questa è nostra. In quel momento sapevamo che la coppa era diventata nostra. Questa per me è la differenza tra le coppe precedenti e questa, perché avevamo lottato perché quel trofeo appartenesse per sempre al nostro calcio. E così la Rimé ha trovato finalmente un padrone, una sede definitiva, perché il Brasile l'ha vinta 3 volte, come da regolamento, finisce nella sede della CBF, Federazione Brasiliana, siamo a Rio de Janeiro. Insomma, è un premio giusto, inevitabile forse, per una nazione dove il calcio è parte integrante della cultura, che gioca un calcio unico, teatrale, spettacolare, letale, e poi insomma è la nazione di Pelé, e in quel momento con Pelé a guidare quella squadra, gli altri non erano da meno, insomma erano Tostão, Gerson, Rivelino, Jairzinho, gente di questo genere. Comunque quel Pelé guida il Brasile e alla fine quella è la giusta conclusione del viaggio della Rimella Coppa, che è scampata alle grinfie dei tedeschi, che è stata custodita sotto un letto dentro una scatola di scarpe, che poi è stata rubata a Londra, che è stata ritrovata per caso da un cane. Insomma, quella coppa che ha fatto così tanta strada ha trovato un porto sicuro, e invece non è assolutamente così. La storia della Coppa Rimé, della sua maledizione, non è ancora stata tutta scritta. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. La notte del 19 dicembre 1983, la Coppa Rimé da 13 anni dorme sonni tranquilli nella sede della Federazione Brasiliana a Rio de Janeiro. Rio si sta preparando al Natale, si respira aria di festa nell'estate brasiliana, perché lì è estate, e nel frattempo in un bar di Santo Cristo, un quartiere a nord della città, ci sono due persone che stanno parlando fitto fitto. Uno si chiama Sergio Peralta, è un ex dipendente della federazione, l'altro si chiama Chico Barbudo, è un detective in pensione. Stanno preparando un colpo che resterà nella storia del Brasile e non solo. Eh sì, perché i due vogliono rubare la Coppa Rimé. La Coppa Rimé vinta dal Brasile in Messico è scomparsa. L'orgoglio brasiliano, la Coppa del Mondo di Calcio, è stata rubata da una teca a Rio de Janeiro. Il trofeo, che vale 70.000 sterline, era stato guadagnato dal Brasile per aver vinto il Mondiale 3 volte. E un paese intero è sconvolto per la scomparsa del suo trofeo, un trofeo unico, il simbolo dell'amore del Brasile per il calcio. E il furto lascia tutti senza parole. Nessun brasiliano, neanche il criminale più incallito, si sarebbe mai sognato di far sparire una coppa come la Rimé. Sarebbe come rubare, non so, il sangue di San Gennaro a Napoli. Era il simbolo dell'amore del Brasile verso il calcio. I calciatori sono sconvolti. Stiamo parlando veramente di persone che in qualche modo, soprattutto per una cultura come quella brasiliana, hanno scritto una data importante più della vittoria di una guerra. Se dovessi fare un appello, chiederei che ci restituiscano la coppa non per il valore monetario, ma per il valore simbolico. E queste erano le accorate parole proprio di Pelé. Nel frattempo partono le indagini. Agli inizi di gennaio finisce in manette Sergio Peralta e 8 giorni di torture fanno sì che lui dica i nomi dei suoi complici. Chico Barbudo, l'abbiamo detto, l'altro uomo del bar, il detective in pensione. E poi c'è un altro signore, si chiama Luis Bigode, è un ricettatore d'oro da 4 soldi che faceva affari con le collanine, con i braccialetti rubati a Santo Cristo. Insomma, è uno che vuole tentare il grande salto. Sono loro i responsabili della seconda scomparsa della Coppa Rimé. Saranno loro a pagare il prezzo della maledizione che aleggia attorno alla coppa. I tre ladri sono alla ricerca di un orafo che possa fondere la coppa, e in quel momento si rendono conto di quello che hanno fatto. E insomma, nessun orafo brasiliano, benché disonesto, è disposto a fondere la Coppa Rimé. E così Peralta, Barbudo e Bigode cercano aiuto da uno che non avrà alcuna remora. Chi può non avere remore? Un argentino, un nemico calcistico numero uno dei brasiliani. Questo argentino si dice disposto a fonderla. Si chiama José Carlos Hernández. I tre si prendono un altro complice, l'argentino José Carlos Hernández, proprietario di un negozio d'argenteria e in affari con Barbudo. Hernández ha l'equipaggiamento giusto, ma può fondere al massimo 250 grammi per volta. Così taglia a fette la coppa. Lo scempio dura 7 ore. La coppa non verrà più trovata, ma qua ci sono macchie d'olio da una parte o dall'altra, varie ipotesi. Quella che suggerisce che la coppa non sia mai stata trasformata in lingotti d'oro, lo dice l'argentino Hernández, ma che sia stata venduta a un collezionista italiano che si trovi oggi a Milano in una cassaforte o nel caveau di una banca. Pensa a Milano, però non da me purtroppo. E c'è un altro colpo di scena poi in questa storia, perché alla morte morte dell'orafo George Bird, vi ricordate l'inglese che aveva realizzato la copia della Rimé, alla morte nel 95 di questo signore, la famiglia trova sotto il letto una coppa Rimé. Nel dubbio che si tratti di quella vera, la FIFA se la giudica per 250.000 sterline e poi viene beffata perché quella coppa si rivelerà un falso. C'è di vero invece che anche sui responsabili dell'ultimo furto si scatena la furia della maledizione della coppa. Peralta viene catturato dalla polizia, morirà da eremita. Il padre non riesce a sopportare la vergogna per quello che ha fatto il figlio e muore di dispiacere. Hernandez scappa in Francia, si dà al narcotraffico e viene beccato nel 98 con 8 kg di cocaina nella valigia, cade in disgrazia. Barbudo verrà assassinato nello stesso bar di Santo Cristo dove era stato organizzato il colpo e Bigode finirà nel carcere duro di Bangu. Insomma, anche stavolta la maledizione della Coppa Rimé è compiuta, forse per l'ultima volta. Insomma, la Coppa ha fatto sognare molti e ha attirato la cupidigia di altri, ma ha saputo vendicarsi e ha saputo mantenere la sua leggenda, anche se adesso probabilmente fisicamente questa Coppa, così come era stata fatta, non esiste più. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano, @radio24.it. Venite a trovarci sui miei social, sui nostri social, visitate la nostra pagina, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay.